Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Francesco Merlo, prestigiosa firma della Repubblica, che dirà per esempio sugli scontri in Val di Susa, sulla leggina ritirata Pro Fininvest, sulla manovra. Scopritelo sabato alle 14, ascoltando come sempre Non ci sono più le mezze stagioni, naturalmente su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.